Bandeira. Da venerdì 8 marzo, festa delle donne, ma noi oltre a fare gli auguri a tutte le donne le portiamo nel cuore tutti i giorni. Puntata speciale, siamo un po' orfani, nel senso che in questa puntata mancherà il nostro amico Luchino, che purtroppo si è ammalato. Siamo in attesa che arrivi Lucone e niente, iniziamo questa nostra puntata salutando come sempre tutti gli amici e tutte le amiche del Brancaleone, Gemini Network che ci supporta e Radio Grad. E settimana intensa, soprattutto di tempo brutto, un marzo pazzo, però insomma noi siamo qua e portiamo un po' di sole in questo che si preannuncia un lungo weekend di maltempo. Ma andiamo col primo pezzo che hanno scelto in questo momento, ce l'ho proprio davanti il nostro amico Matteo, e andiamo col primo pezzo e poi iniziamo questa nostra nuova puntata. A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera. E no come adesso, nei sabato sera, ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino, che neanche l'inverno potrà mai gelare, può crescere un fiore da questo mio vedrai con il tempo lì sopra il suo viso lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, che torna fedele, l'amore è tornato. Ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore. We'll be right back. abbiamo iniziato questa nostra nuova puntata con un pezzo storico di Rino Gaetano, A mano, e noi a mano iniziamo questa nostra nuova puntata, questa che è la nostra terza stagione, che piano piano ci porta verso la nostra centesima puntata. E diverse le collaborazioni, appunto, prima ho salutato Gemini, ma ora salutiamo anche gli amici di Welcome, che a breve torneranno anche loro qui in quel del Brancaleone. E niente, il tema della puntata oggi sostanzialmente non c'è. Oggi andiamo un po' a ruota libera, un po' parliamo di quelli che sono stati i fatti più importanti della settimana. È venuto a trovarci in studio il nostro amico Andrea, che va in onda con il suo programma E-Listen tutti i giovedì dalle 17 alle 18, e più tardi, appunto, lo parteciperà oggi in qualità di ospite in quel di Jolly Roger. E iniziamo questa puntata, c'è la nostra amica Alice qui di fianco, e partiamo subito con i suoi consueti consigli di bellezza per uomini e per donne. Quindi ora passo il microfono, così inizia a raccontarci qualche prodotto. Allora, io praticamente, ciao a tutti, e oggi vi parlerò di un bagno schiuma, che praticamente è un bagno schiuma praticamente piccolino, non è, cioè, allora, sia in bustina ed è sia in flaconcino. Senti, come si chiama, te lo ricordi? È nettare di pera ed estratto di legno dolce. Hai capito? E dici un po' che come funziona questo. Allora, questo bagno schiuma è morbido, rilassante, leggero, molto profumato. Appunto, mi ha detto che c'è tutto il legno, tutta questa cosa, c'è un bel profumo, insomma. Senti, ma come funziona? Tu ti insaponi, te lo lasci, lo insaponi a mano con qualche spugna? Allora, io mi metto il sapone sulla spugna, mi insapono prima, mi sciacquo, mi sciacquo e poi mi sciacquo bene perché mi sta rimanendo il sapone addosso. E poi mi metto la... E poi ti asciughi. Senti, ma è un prodotto, cioè, questo bagno schiuma anche gli uomini lo possono indossare o è una cosa, cioè, lo possono usare oppure è una cosa prettamente femminile? Ma lo possono usare anche gli uomini. Ok. E altro da dire su questo bagno schiuma? Certo, perché comunque, guarda, il bagno schiuma vanno bene sia per gli uomini, vanno bene per gli adulti. Senti, dove lo si può trovare? Dove si può comprare? Supermercati, profumerie? L'erbolario. L'erbolario a Porta di Roma, lo puoi trovare lì. Ti ricordi il prezzo, così diciamo? 10,50 euro. Perfetto, ammazzo, va lì, perfetta proprio. Senti, allora mandiamo un pezzo e poi ritorniamo qui in diretta. Andiamo con il secondo pezzo di questa nostra nuova puntata. We'll be right back. adatto sia a uomini che a donne. E proseguiamo questa chiacchierata appunto dal punto di vista della mobilità, cioè dei servizi ATAC. Sembra che sia una settimana tranquilla, a parte oggi, perché è un discorso che vale un po' in tutta Italia, perché c'è lo sciopero generale di diverse sigle sindacali. E oggi obiettivamente ci stanno un po' di problemi, un po' di traffico, un po' di sciopero. Roma, diciamo, questo venerdì è un venerdì nero. Però noi andiamo avanti con i consigli di bellezza, giusto Sali? Sì. Allora, proseguiamo con questo con questa crema, che era un bagno schiuma. Ok, vai. Allora, questo bagno schiuma contiene nettare di pera ed estratto di radice di liquirizia, olio di girasole e grano lavorato. La potete trovare all'erbolario. Perfetto, perfetto. Quindi niente, questi sono i consigli della nostra amica Alice, bellezza, che abbiamo detto è sia maschile che femminile, soprattutto femminile oggi che è l'8 marzo, lo ricordiamo, e sono diverse le iniziative che sono in atto in diverse città, appunto dei vari movimenti transfemminismo, diritti delle donne, quindi diciamo una giornata particolarmente sentita. Con questi occhioni, Alice, io ti passo il microfono perché secondo me devi dire qualcosa. Vuoi dire qualcosa? Sì. Vai. Allora, praticamente adesso vi posso consigliare pure, c'è una crema che la CeraVe, che la una crema per il corpo, per gli uomini. Hai capito? Quindi, e secondo te mi fa più bello? Hai A parte dure e rinasce, però detto questo, mi rende un po' più. Tonifica la pelle? Mi sa di sì. Mi sa di sì. Allora, quindi io la provo. Ci sono pure le creme barba. Ah, quelle sì, quelle sì. Mia sorella, a proposito, visto che appunto si parla di donne, a Natale mi ha regalato diverse balsamo, poi c'è lo shampoo, poi ci sta il dopo rasatura. Prodotti molto, molto interessanti per chi ha come me la barba, ma non per bellezza, ma per comodità, perché diciamo io non ho più tagliato la barba da quando ho scoperto che ci impiego molto di meno la mattina a non farla piuttosto che farla. Io infatti ti consiglio proprio la crema schiuma barba. Perfetto, allora io guarda, sicuramente, Lasciare. quindi io la prenderò, dove la posso trovare? La puoi prendere online. Ah, perfetto, vedi, quindi manco mi devo muovere da casa, su Amazon. Perfetto, Sì. allora Guarda, io. la trovi perché ci sta. Perfetto, io allora oggi provo a comprarla e poi la settimana prossima ne riparliamo insieme con Alice. Allora andiamo con un altro pezzo e poi ritorniamo con il nostro amico Ciccio Matteo che è qua davanti a me. E ovviamente abbiamo le nostre rubriche su previsioni del tempo del weekend e soprattutto. Un ricco weekend calcistico e andiamo con il primo, con un altro pezzo di Jolly Roger. Ciò che dico nasce dall'odio, perché sono nata nell'amore ma cresciuta altrove, perché mi amo e poi mi odio. Tu che lasci cicatrici senza una decisione, con gli sconosciuti a letto, perché di amore finto almeno un po' ne provo. E poi mi odio se mi diverto, perché non mi rispetto proprio. E quando vivo così ci sto bene, ma poi male. Non credo a ciò che dici perché va bene, ma poi male. Darari, darari, darari. Ho detto a Marianna di crescere, perché il mondo è cattivo. Mi sono chiesta che senso ha essere dentro se poi non ci vivo. Ho provato ad essere migliore, ma poi mi ha spezzato il cuore. Ma oggi ti spezzo perché mille pezzi ho parlato di te senza amore. Yeah, mi dici che sono cambiato. Yeah, è da un po' che sono diverso. Ehi, ma dimmi che cosa è cambiato. Che non ti sopporto, ma sono la stessa. Ciò che dico nasce dall'odio. Ehi, perché sono nata nell'amore ma cresciuta altrove. Perché mi amo e poi mi odio. Un po' come fai tu che lasci cicatrici senza una decisione. Con gli sconosciuti a letto, perché d'amore finto almeno un po' ne provo. E poi mi odio se mi diverto, perché non mi rispetto proprio. Ma quando vivo così ci sto bene, ma poi male. Torniamo in diretta, questo è un pezzo di Big Mama, Odi et Amo, appunto figura femminile che in questo Sanremo ha dato diciamo una strezzata alla sua carriera, se anche ne avesse mai avuto bisogno, diciamo è stato un po' un trampolino di lancio. Ottima artista, bella penna, napoletana verace, a noi ci piace, quindi piacevole passare i pezzi di Big Mama. Ciccio, vieni qua. Sì, è vero. Buonasera a tutti. Io mi ballo nelle meteo e ho le partite. Ok, con che iniziamo? Con le partite o con il meteo? Meteo. Meteo, allora, weekend che inizia, partiamo Partiamo con oggi. Il tempo com'è? Domani piove, perché portare l'oppello. Domenica c'è nuvolo, però. Ah, domenica è nuovo, quindi niente passeggiatina al parco, no, come consigli tu. Quindi come passerai questo weekend, visto le previsioni del tempo? Bottatissimi, perché io domenica tocca tutto tornare a casa, perché io magari alla play a Viva di due da solo con papà e mamma. Perfetto, quindi lui ha detto in base alle previsioni del tempo si è organizzato, perché lui tendenzialmente esce il weekend, infatti consiglia passeggiatina, abbiamo raccontato delle camminate che ha fatto in centro e compagnia, ma questo weekend purtroppo il tempo non lo consente, quindi tu starai a casa a giocare alla play, io starò a casa a dormire tutto il giorno. Senti, e invece tornando un po' a noi, come parliamo di calcio? Ok, partiamo con le partite che hai già in quota. Allora, andiamo vinto in Napoli, in Napoli. Poi siamo molto abitati, poi l'Inter Verona abita Lecce e Venturata abita la Juve. Perfetto, noi ricordiamo a tutti che si gioca in maniera sana e consapevole, vale a dire giocate solo gli spicci che c'avete, perché il resto mi sembra abbastanza superfluo, e soprattutto se vincete noi tutti i venerdì siamo qua dalle 4:15, 4:30 alle 6:15, 6:30, quindi via di Levanna 11, Brancaleone, se vincete vi aspettiamo, almeno una merenda ce la possono portare, giusto? Sì, ah, me la dico una cosa. Aspetta, mandiamo un pezzo e poi ritorniamo in diretta? Sì. Vai, pezzo che ha portato lui, un pezzo che quando l'ha scritto mi sono quasi emozionato. Io vado di play, è un pezzo che non c'è bisogno di nessuna presentazione. Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti che farò, quattro amici troverò. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Di un amore puro, puro come il tuo amore. Da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Quest'ora cosa vuoi? Mi va bene. vada quando ci sei tu. Tutto questo non c'è più. Appunto, questo era un pezzo che ha portato il nostro amico Matteo. Come detto, non c'era niente da presentare. Bene così, sono contento che piano piano anche i ragazzi con la loro parte musicale propongono pezzi che restano nella storia della musica in generale. Ciccio, allora, oggi sei stato come tutti i lunedì e il venerdì ad alternanza scuola-lavoro. È andata bene questa settimana? Sì, ho fatto, l'ho raccolto, ho fatto i caffè, i cappuccini, anche i tramezzini. Bravo, questo è vero, perché lui obiettivamente si sta dando tanto da fare con questa alternanza scuola-lavoro e abbiamo scoperto che è una cosa che gli piace molto, quindi è una cosa su cui bisogna incentivare. E hai festeggiato con la scuola oggi le tue compagne, immagino. Che gli hai portato? No, io tanto non mi è, perché io i miei amici mi hanno portato niente. Male, manco un caffè gli ho offerto. No, come no? Non hai offerto nessun caffè oggi? Sì. A chi hai offerto i caffè? A Davide, mio amico, e a compagni da Tomia, e basta. E alla prof? No. Mannaggia, io solo per questo motivo lo buccerei. Però io so che è uno preciso, Matteo, e si vede anche dalla pagella che è fiero di presentare a tutti quanti. Ha avuto un'ottima pagella, confermo, anche se insomma sì. Io l'ho accorto, ho mandato la pagella, ho preso 8 a pagella, 8 clete, 8 matematica. Sì, lui è un grande cultore della lingua straniera, anche perché è appassionato di viaggi e tutto quanto. Quest'anno pure è prossimo a partire per nuove mete, tipo? Dov'è che andrai? Non diciamo quando, ma dove andrai? Io a Canada, io una cosa. Dove vai? Ma prima mi avevi detto, A Spagna, perché papà... No, che Spagna? Hai detto tu? Dublino, io Dublino, bello, perché io a Dublino, certo, ho un anno, tata gente a Dublino. Ciccio, ma tu lo sai che se vai a Dublino devi bere la birra? Sì. Però, cioè, qui sta leggenda, sta andando avanti ormai da troppo tempo, quindi tornerai da Dublino con una birretta bevuta? Sì. Va bene, poi chiederemo, non... Poi io racconto, io ho un amico, ho mio amico... Che salutiamo l'amico, perché prima tu dici c'è un amico, ce n'hai tanti di amici, almeno il nome diciamo, sì. Così lo salutiamo. Ciao Alessandro, ciao prof. Quindi abbiamo salutato e Andrea, prima o poi hai detto che verrà qui da noi a trovarci a Brancaleone, giusto? Sì. Quindi noi gli dobbiamo fare l'invito ufficiale per far venire Andrea qui il pomeriggio, sì. Giusto? Sì. Quindi Andrea, no, quando vuoi venire, la porta qui al Branca, noi la apriamo dalle 4 e un quarto e la chiudiamo alle 6 e un quarto. Noi siamo qua. Qua. Perfetto, andiamo con un altro pezzo musicale e poi ritorniamo sempre qui in diretta. Jolly Roger tutti i venerdì dalle 17 alle 18. nella confusione, miliardi di persone, solo un'occasione qua giù, tra l'azzurro e il buco nell'ozono, tra John Lennon, Paul e Yoko Ono. Il passato non dimentica, il futuro fa ginnastica, si prepara tutti i giorni per te. Canta un po' al bacchiare, un po' My Way. Schiaccia il tasto Rec e il tasto Play. E poi così, tu sei qui, Natale in un qualsiasi lunedì, Udini che toglie le catene al mondo in fondo, un inganno non è, è solo una follia, un salto nel vento, un'ora nello spazio, un punto nel tempo, è un giorno che va via, un appuntamento, un battito perpetuo che dura un momento. Nei millenni tutti gli anni, aspettando primavera, un Platone, un Botticelli, Dumbledore. La maieutica del fai da te. Vuoi morire, vivere con me. E poi così, il tuo ritorno, eclissi in un qualsiasi mezzogiorno. Mi trasformo, cercando luce in fondo al mondo insieme. Torniamo in diretta, salutiamo il nostro amico Luchino che questa settimana purtroppo non fa parte della puntata perché è a casa malato, ma ci rifaremo settimana prossima. Lo saluto perché appunto è un tema che sicuramente a lui sarebbe piaciuto, ma ci sarà modo insomma di affrontare. Ci ha voluto trovare il nostro amico Andrea che ha iniziato settimana scorsa con la puntata di Zero di Alisten. Il suo programma, un programma, anzi mo gli do direttamente il microfono così sarà lui a raccontare quello che è il suo programma. Ciao a tutti ragazzi e ragazze in ascolto, intanto grazie mille Pietro per avermi introdotto. E, beh, il programma è iniziato appunto giovedì scorso con l'episodio zero e sostanzialmente tratta di storie inerenti principalmente ai videogiochi, però comunque il discorso poi si allargherà anche ad altri argomenti come ad esempio il cinema, le serie televisive e tanto altro. Se magari ci sarà l'occasione di fare eventuali eventi o cose simili, comunque verranno comunicati. Ed è un piacere ovviamente essere ospiti anche di Jolly Roger. Allora, sì, ha detto bene Andrea, è stata la puntata zero, settimana prossima, questa settimana non siamo riusciti ad andare in onda, un po' per organizzazione, un po' per sovrapposizioni di cose, ma settimana prossima dalle 17 alle 18 tornerà il nostro amico Andrea. Seguite tutti i vari canali social dove appunto racconteremo quello che sono i vari programmi, le attività di Pirate Radio. Come ha detto Andrea, piano piano ci avvicineremo anche a un evento Gemini che stiamo in fase di studio, ma comunque si farà sicuramente dopo Pasqua. Sarà una Pasqua che servirà a darci un attimino un po' di voglia in più di riprendere questa primavera che sta per iniziare. Allora, Andrea, oggi ci siamo sentiti, appunto, l'idea era tutta un'altra, cioè che c'è il nostro amico Luchino che è affine al mondo di Andrea, che è il mondo dei giochi in questo caso. E appunto oggi ci eravamo sentiti e mi raccontava insomma di una notizia che io poi ho avuto conferma ascoltando e leggendo anche qualche cosa online. Passo direttamente il microfono ad Andrea, che è quello più preparato. Io ho solo sentito, poi il resto, i particolari, piano piano ce li svela il nostro amico. Allora, sì, ragazzi, purtroppo oggi è una triste giornata, diciamo, per il mondo dei lettori di manga, ma anche degli amanti degli anime, quindi cartoni animati giapponesi, per chi non fosse avvezzo, diciamo, al termine anime, perché purtroppo è venuto a mancare Akira Toriyama, che è sostanzialmente il padre di Dragon Ball, che immagino quasi tutti conosceranno come serie. Ovviamente Dragon Ball è la più famosa, ma di anche tantissime altre serie che questo grandissimo autore ha avuto modo di creare, come ad esempio il Dottor Slump e Arale, per intenderci, una serie che comunque gli ha valso, diciamo, diversi premi. Ma poi ovviamente la serie successiva è stata appunto Dragon Ball, poi ha avuto modo di lavorare ad altri progetti, è anche riconosciuto non solo come mangaka, ma anche come una figura importantissima inerente al mondo dei videogiochi, perché comunque sono usciti, al di là dei tanti giochi tie-in, non solo inerenti Dragon Ball, prima di Dragon Ball ci sono stati altri giochi di ruolo giapponesi, come ad esempio Chrono Trigger e Dragon Quest. E quindi insomma è una grande perdita purtroppo per questo mondo. E oggi, sentendo appunto Pietro, gli ho comunicato questa triste notizia purtroppo, e comunicandogli questa. Chiedo scusa, c'è stato un problema, diciamo, tecnico. Comunque, comunicando questa notizia, ho avuto modo di poter parlare appunto in questo spazio radiofonico di quest'autore. E per omaggiarlo ho deciso di dedicargli, diciamo, un pezzo che fa parte, penso, della mia infanzia, ma anche di quella di molti altri. Quindi prego, Pietro. Andrai nell'immensità. questo era Dragon Ball, la sigla ufficiale della versione italiana di Dragon Ball. E io, appunto, quando lui mi ha dato questa notizia, ho detto, cioè, sono rimasto un po' spiazzato, perché appunto, cioè, questa va un po' sul confine gioco, cartone, anime, quindi diciamo una sottile linea che in parte conosco, in parte no, diciamo che io conosco più dal punto di vista del cartone animato, perché insomma comunque Dragon Ball è stato, ha fatto la storia di tutta quella scena giapponese che per un tot anni era un po' sparita dalla televisione italiana, almeno quella commerciale di televisione. Poi fortunatamente ci stanno diverse sfumature, ci sta internet, quindi diciamo è tutto una conoscenza un po' più amplificata. La cosa che mi ha più colpito, che ho detto ad Andrea, ho fatto, oh, ma tu lo sapevi? Cioè, e ho detto, io ho sentito sta cosa, a parte che era abbastanza giovane, quindi è stata una morte abbastanza inaspettata, però la notizia è stata data ufficialmente una settimana dopo che praticamente questo povero uomo è passato a vita migliore, ma già è stato fatti funerali, seppellito e tutti quanti, e Andrea mi diceva, obiettivamente funziona così in Giappone. Io ho detto, vabbè, purtroppo le mie conoscenze con il Giappone sono molto scarse, quindi ora gli ripasso il microfono e gli chiedo, perché questa abitudine di far sapere le cose? Indubbiamente non metto in dubbio che è una persona abbastanza importante, perché comunque ha creato un impero tramite non solo il personaggio di Dragon, ma tutta la roba di merchandising vario che si è creato tutto intorno al mondo. Quindi ho detto, magari forse è una cosa di più tutela verso anche la famiglia, per una sorta di, visto, sciacallaggio che c'è appena muore una persona. Però appunto Andrea invece mi ha spiegato, e ora spiegherà anche lui, perché si usa questa cosa in Giappone. Ma allora, diciamo, non c'è una spiegazione specifica. Diciamo che è un rituale, nel senso, i giapponesi sono tendenzialmente un popolo molto rispettoso, ma soprattutto molto riservato. Quindi di conseguenza, di fronte alla morte, vuoi che, insomma, noi abbiamo una cultura occidentale, quindi è diverso l'approccio alla morte. Noi magari abbiamo una cultura, come dire, da un punto di vista religioso più cristiano, loro, diciamo, hanno altre tipologie di religioni, credenze, credenze, esatto. Quindi probabilmente è dovuto anche a quello. Poi comunque Toriyama è stato appunto un grandissimo autore, quindi vuoi per il rispetto per lo stesso artista, vuoi per usanze appunto giapponesi, probabilmente, diciamo, hanno incrociato entrambe le cose e hanno deciso di dare questo triste annuncio a una settimana, diciamo, dal decesso. Purtroppo, diciamo, è un'usanza, potrebbe essere una delle usanze giapponesi, però vabbè, purtroppo questo autore, cioè, nonostante la morte, vivrà comunque per sempre nei cuori di tutti, insomma, i lettori e anche amanti appunto degli anime o comunque della cultura giapponese. Un po', infatti, come quando si parla di Maradona, cioè comunque Maradona è sempre Maradona, anche se è morto. Maradona è un'entità, certo. E quindi, cioè, nel senso, anche da lì merchandising, roba varia. Ah, certo, no, assolutamente, diciamo. Poi Dragon Ball è veramente è il secondo manga più comprato al mondo, perché il primo rimane, almeno è l'opera più attuale, perché ancora non è finita e probabilmente dicono fra 5 anni, in teoria purtroppo dovrebbe finire, One Piece. Però One Piece, lo stesso autore, che si chiama Eiichiro Oda, ha preso, diciamo, molte ispirazioni dallo stesso Toriyama, perché Toriyama è stato proprio veramente un big di questa industria. Ha influenzato Oda, che appunto sta continuando il suo manga, ma anche Kishimoto, che è stato l'autore di Naruto, per dire, o Kobe, mi pare, che è l'autore di Bleach e tantissimi altri autori, insomma. Quindi veramente un grandissimo peccato, però come ho detto vivrà per sempre nei cuori e nelle infanzie probabilmente di molti ragazzi e ragazze. Andiamo con un altro pezzo. Giorgio Vanni, anche quella di prima era sempre Giorgio Vanni, passiamo da Dragon Ball Z, What is My Destiny, a Dragon Ball GT, serie che Toriyama ha semplicemente, come dire, supervisionato. Non l'ha fatta proprio lui, però era comunque, la sigla è bellissima. Andiamo. Questo è il nostro omaggio, anzi piccolo omaggio, a quello che è stato il creatore di Dragon Ball, perdita appunto che si è venuta a conoscenza questa settimana. Ripasso il microfono al nostro amico Andrea, che c'ha altre due cosettine veloci, e poi io ricordo a tutti quanti giovedì dalle 17 alle 18 e listen, potete riascoltare il programma via podcast, seguiteci ovviamente sui vari canali social. Presto, non è detto che ci sia una pagina appunto di Elisten, lo scopriremo solo vivendo, come diceva qualcuno di famoso. Esatto, come ha detto giustamente Pietro, diciamo prossimamente avrete aggiornamenti in merito alla pagina social del programma Elisten. E che dire, questo è stato un omaggio insomma al nostro grande Toriyama, e purtroppo, come ho detto, cioè è venuta a mancare la notizia, come ha detto giustamente Pietro, siamo venuti a conoscenza di una settimana successiva. Siamo ai saluti finali. Io, diciamo, l'unica battuta che volevo fare, ma in modo scherzoso logicamente, che forse l'unica cosa buona fatta dalla Mediaset è stata probabilmente farci vedere Dragon Ball in età giovanile. Poi c'è stato un periodo che era si narrava la cosa che volevano censurarlo, quindi... Ma l'hanno censurato, esatto. Sì, quanta roba! Ma tanto, figurati, è una cosa tipica, diciamo, italo-americana, chiamiamola così. Almeno la Mediaset con Dragon Ball e i Simpson si è sbilanciata tantissimo, quindi riconosciamo qualche cosa di buono. Poi i Simpson indubbiamente anche loro hanno il loro fascino, ma non sono ovviamente i manga. Beh sì, vabbè, ovviamente parliamo di un cartone americano contro, diciamo, un altro di una cultura giapponese che viene però da un fumetto, quindi insomma è leggermente diverso, però è ovviamente particolare, anzi che appunto purtroppo ci sono state sì delle censure, però comunque è arrivato, in qualche modo ha intaccato la nostra cultura, e se stiamo, diciamo, tutti a parlarne oggi di questa partita è perché evidentemente qualcosa, insomma, c'è rimasto. E che dire, io mandiamo il tuo ultimo pezzo e poi ma faccio i saluti subito. Beh, allora io ringrazio ovviamente ringrazio Pietro dell'ospitalità, i ragazzi del programma di Jolly Roger che mi hanno gentilmente ospitato. È un piacere, come dicevamo fuori onda. Manca la figura di Luchino perché lui è di Dragon Ball, è un esperto appassionato, ma la settimana prossima vi mettete da una parte e ne parliamo. Allora Luchino, grandi saluti anche da parte mia logicamente, e che dire, se volete ascoltarmi ogni giovedì ci sarà appunto la trasmissione e listen, ma io comunque vi continuo a rimandare a sentire anche questa trasmissione logicamente. Direi di mandare l'ultimo pezzo. E questo è giapponese, quindi è un po' particolare, si chiama Ed La e Challa, ma chi ama Dragon Ball probabilmente riconoscerà subito il pezzo. Perfetto, grazie Andrea, e mi raccomando, tutti i giovedì dalle 17 alle 18 e listen, andiamo con il penultimo pezzo e poi ritorniamo per i saluti finali. Questo è Jolly Roger tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Fly away, fly away. 体中に広がるパノラマ 駆け蹴られた地球が起こって 火山を爆発させる 飛行隊ね Challa, hey Challa 何が起きても 気分は Heno Heno Kappa Challa, hey Challa 胸がパチパチするほど 騒ぐ元気だな Slash ジェットコースター打ちて行くよパニックの園へ景色逆さになるという快さ山さえお尻に見える悩む時間はないよ その潜むびっくりに会いたいから Challa, hey Challa 頭空っぽの方が夢詰め込める Di questa nuova puntata di Jolly Roger. È stato un piacere farci una bellissima chiacchierata con Andrea e il mondo di Dragon Ball. Appunto, rimando a tutti i giovedì dalle 17 alle 18, sempre solo su www.pirateradio.it. Ringrazio la nostra Alicetta per i consigli, per i suoi consigli di bellezza anche al maschile. Mi ha fatto vedere fuori onda la cremetta che mi dovrò comprare la settimana prossima, ne parliamo, e non è una minaccia. Allora Ali, siamo arrivati ai saluti, volevi salutare qualcuno? Luchetto. Ok, salutalo. Ciao Luca. E Lugone, salutiamo Luchino e Lugone, perché purtroppo questo venerdì mancano tutti e due. Ciao Lugone, da Luchino! Nostro amico Matteo che saluta solo Luchino e Luchetto. Sì, ora. E ai compagni, ciao compagni, ciao! Saluta tutti i compagni dell'Orazio. Andrea, tu vuoi salutare qualcuno? Ma io saluto tutti gli ascoltatori e saluto soprattutto Luchino e Lugone. Dico anche un bel Forza Roma, vista la partita di ieri. Perfetto, io ho sorvolato in alto, ma insomma almeno alla fine doveva uscire. Io, salutando tutti e tutte, vorrei ricordare e soprattutto fare un appello per quello che è una situazione che non riguarda solo lo spazio sociale del Brancaleone, ma riguarda un po' quasi tutti gli spazi di Roma, che va dalla Palestra Popolare di San Lorenzo, Spin Time, Intifada e soprattutto anche il Brancaleone, purtroppo. Quella che è che sta diventando una campagna di odio verso gli spazi dove si produce cultura dal basso, dove ci si crea la possibilità di dare spazio a nuovi progetti di inclusione e di integrazione sociale, un peccato. Quindi a breve è uscito anche un comunicato stampa che rimanda a quello che sarà un importante corteo, appunto, a sostegno dello spazio del Brancaleone, che sarà il 5 di aprile. E per ora niente, auguro a tutti e a tutte un buon weekend, ancora auguri a tutte le donne, anche se come sempre si dice le donne si portano nel cuore sempre e tutti i giorni e vanno rispettate tutti i giorni. Buon weekend a tutti e a tutte, questo è Jolly Roger, a settimana prossima.